Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Molti di noi si riconosceranno nel protagonista della puntata di oggi. Vi dico che non è una persona, ma se lo fosse, con molta probabilità sarebbe così. Un gran lavoratore. Instancabile e scrupoloso. Non si lamenta mai. Quando lo fa è proprio perché non ne può più. Tende a ingrassare. E anche a ingrossare. Ha un caratterino tutto suo. Gli salta spesso la mosca al naso. Ama la vita regolare. Ma non insipida. Gli piacciono la varietà e la misura. Che ne dite? Che vi sembra una persona da conoscere? Già ne conoscete una simile? Vi fa simpatia? Ne vorreste stare alla larga? In linea con noi abbiamo il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Dottor Aquilar, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Che le sembra? Mi sembra una persona simpatica. Diciamo che alcuni degli aspetti che sono stati citati possono essere molto interessanti, perché per esempio il gran lavoratore, che sembra una cosa bella, e a Napoli c'è un proverbio che dice l'uomo lavoratore è la rovina della famiglia, cioè ognuno di questi aspetti può avere un lato positivo e uno negativo. Io toccherei in particolare quattro aspetti di questa persona che sarà scoperta fra poco. Sì. Essere un gran lavoratore, essere collerico, rabbioso, sia in senso positivo che negativo, essere uno che non si lamenta mai, e anche questo può essere buono o cattivo a seconda delle circostanze, e aggiungerei anche che l'oggetto del nostro argomento di oggi ha a che fare con il coraggio, con il coraggio. Quindi pregherei gli ascoltatori che si sentono gran lavoratori, oppure particolarmente collerici, oppure persone che non si lamentano mai, oppure persone che hanno fatto invece del coraggio un aspetto importante della vita e che hanno delle esperienze su questi quattro punti da raccontarci, di telefonare e di raccontarci le loro emozioni collegate a questi quattro aspetti della personalità, loro personali o delle persone a loro care che hanno colpito in qualche modo la loro attenzione. E poi dopo ne torneremo a parlare più avanti. Grazie dottor Aquila. Allora ricordo: lavoratori, collerici, coraggiosi o persone che non si lamentano mai. 800 24 00 24. Dottor Aquila, torni con noi. A fra poco allora. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre diverso, sempre ogni mattina, sì dal giorno prima, dal giorno prima. Con in bocca un gusto amaro che fa schifo, chissà cos'è stato quello che ho bevuto. Sto dal letto e penso al povero mio fegato, fegato, fegato spappolato. Mistero svelato. In linea con noi abbiamo il professor Franco Filipponi, direttore dell'unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato all'azienda ospedaliera universitaria Pisana. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, benvenuti a tutti e buona giornata. Bene, iniziamo bene con una buona giornata, speriamo che sia iniziata bene anche per i nostri ascoltatori. Professore, la descrizione che abbiamo fatto del nostro fegato, a cui il dottor Aquilar ha aggiunto un dettaglio, il coraggio, perché infatti si dice ci vuole fegato per dire ci vuole coraggio, gli calza a pennello, ma lei che lo conosce bene questo fegato, che cosa aggiungerebbe? Ma io aggiungerei che sicuramente si tratta di una situazione che a buon ragione può essere considerata una specie di pugile, una categoria dei pesi massimi, laddove la ghiandola che abbiamo, la più grande del nostro corpo, va considerata anche in maniera importante, una specie di personaggio conosciuto e nello stesso tempo un personaggio che ha trovato anche la possibilità di essere ampiamente conosciuto laddove ha l'onore, diciamo, anche di essere citato nella mitologia, laddove parliamo di Prometeo che, come tutti forse conoscerete, viene incatenato ad una roccia da Zeus per essere stato punito, certo. E dei rapaci ne mangeranno poi il suo fegato. Che ricresce! Ricresce ogni notte. E infatti il suo problema iniziale fu proprio quello di sapere che, essendo portatore di luce e progresso, ovviamente venne punito da Zeus. Ma nello stesso tempo, se vogliamo, possiamo anche immaginare di ricordare che Pablo Neruda ha scritto anche una poesia che è Ode al fegato, quindi ormai una situazione molto importante. Il fegato è un qualcosa che ha di fatto incide su molte delle nostre attività. Assolutamente, infatti è un lavoratore instancabile, efficiente, scrupoloso, ha però anche i suoi punti deboli. Credo sia importante, professore, conoscerli, perché su alcuni di questi, su alcune delle fragilità del nostro fegato, abbiamo un ampio margine di azione. Possiamo, come si dice, fare un po' la differenza. Penso allo stile di vita, professore. Infatti, lei tocca un punto estremamente importante, un punto che evidentemente caratterizza, se vogliamo, il nostro personaggio. Infatti, uno stile di vita che non si attaglia, diciamo, a chi è sedentario, assolutamente non tollera l'alcol, il fumo le dà fastidio ma molto molto, e quindi diciamo è un personaggio che comunque, appunto, con tutte quelle caratteristiche sono già state considerate, insomma, certo, da Aguilar. Indubbiamente è un personaggio particolare. Infatti noi abbiamo messo ama la vita regolare, non insipida, perché gli piacciono la varietà e la misura, ma è un po' un perfettino, è o un no? po' un perfettino, su questo non ci sono dubbi, un perfettino che chiaramente, come giustamente è stato detto, non ama la mosca al naso. Ecco, perché la rabbia, vero, perché molti dei nostri ascoltatori, noi abbiamo messo questo profilo su Facebook, hanno indovinato, un'ascoltatrice però scriveva: perché la mosca al naso non mi torna, invece la rabbia gli fa male, vero? Sì, la rabbia gli fa molto male, tanto che così veniva raccontato nei secoli che ovviamente la bile poteva essere una situazione estremamente acida, se così si può dire, per il nostro fegato. Professore, abbiamo detto che ha di buono che non si lamenta, se non proprio quando è messa alle strette, ma qualche sospetto possiamo averlo, magari qualche scrupolo. Sappiamo di non averlo trattato in modo adeguato, ad esempio di aver approfittato un po' di lui. Sì, sicuramente, soltanto che approfittarsi un po' di lui vuol dire metterlo francamente in difficoltà. Sicuramente in grande difficoltà, perché poi questo può a un certo punto diventare grosso, se vogliamo, ma nello stesso tempo grasso, e comunque ovviamente dobbiamo prestare attenzione alla sua volontà di produrre tutto quello che nella sua caldaia, se così si può dire, lui deve metabolizzare ogni giorno. E quindi direi che sicuramente dobbiamo mettere all'attenzione e al bando, se così si può dire, gli alcolici in primo luogo, che poi siano vino, superalcolici o situazioni ovviamente che so da happy hour, sì, ovviamente non sono graditi dal nostro amico, su questo non ci sono dubbi. Professore, proviamo a fare quindi un identikit della persona che dovrebbe prestare un pochino più attenzione al proprio fegato. Chi si lascia un po' andare, mangia in modo sregolato, una dieta particolarmente ricca di grassi, lei faceva poi riferimento, anzi ha sottolineato più volte il problema dell'alcol, ma mettiamo anche una persona con un girovita abbastanza importante, imponente. Sì, è proprio quello che lei sta mettendo in luce, cioè si tratta purtroppo di una persona che ha una dieta errata, una dieta quindi che non viene gradita dal nostro personaggio, sì, e che chiaramente comporta poi a un certo momento, appunto, quello che è un fegato grasso, cioè la cosiddetta steatosi. Sì. Chiaramente la steatosi, che vuol dire la presenza di grasso all'interno delle cellule del fegato, ovviamente comporta anche un aumento di volume di questo nostro amico e chiaramente esita in quello che è generalmente un sovrappeso, un'obesità, cosa che oramai è sempre più purtroppo visibile nella nostra popolazione, che spesso, come lei aveva già inquadrato, diciamo, non tiene conto del giro vita, sì, e che si dimentica costantemente di controllare appunto questa semplice, diciamo, prova da tutte le mattine per valutare il proprio giro vita. Giro che, vita è lì, che è lì sotto gli occhi di tutti, basta guardarsi, buttare un po' un occhio sulla pancia. Infatti, prima si nota facilmente. Mm. Secondo, evidentemente, questo controllo sfugge a chi ovviamente tende a bere, diciamo, alcolici, certo, tende a usare la birra, mm, e che chiaramente vede nella steatosi epatica, in questa situazione, una grave predisposizione a una malattia poi che potrebbe subentrare ovviamente facendo ammalare il nostro fegato. Quindi se è grasso si ammala. Ma professore, stanchezza, cattiva digestione, dolorini sul lato destro della pancia spesso ci fanno pensare al fegato. In realtà il fegato non parla, abbiamo detto, non manda questo tipo di segnali. Oltre al nostro girovita e anche a una rapida analisi di quello che mettiamo sul piatto, quali sono i segnali che ci potrebbero far capire che il nostro fegato è sovraffaticato? Ma intanto, per cominciare, delle cose abbastanza comuni che tutti conoscono, cioè le transaminasi che a un certo punto tendono a transaminasi che sono degli enzimi, sì, che ovviamente metabolizzano, diciamo, alcune parti del nostro fegato e che a un certo punto si trovano in cattiva situazione e quindi si rialzano, cioè sì, se dei valori di piccola entità sono nella norma, se piano piano invece il fegato tende a peggiorare la sua condizione, evidentemente rialza questi esami e ovviamente questo dà un aggravamento, diciamo, della situazione, alla cosiddetta steatosi. Quindi transaminasi è un valore che dobbiamo tenere sott'occhio, che ci può, sì, dire qualche cosa. Ci sono altri indizi, professore? Ma intanto, per cominciare, i trigliceridi. Sì. I trigliceridi è tutto quello che può essere denominato sindrome dismetabolica, laddove tante cose si cumulano insieme per danneggiare non solo il nostro fegato, ma anche tutta la parte, diciamo, inerente a quel famoso giro vita che abbiamo appena nominato, ahimè. 800 24 00 24, quindi aggiungiamo all'elenco dei grandi lavoratori che non si lamentano mai, che ogni tanto hanno la mosca al naso, che sono coraggiosi ma che hanno un girovita abbondante, che recentemente magari hanno misurato e valutato le transaminasi, di chiamare il nostro numero verde come Facebook e Twitter, e i messaggi al 349-238-6666 sono a vostra disposizione. Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. E nell'attesa delle vostre domande, dei vostri interventi, noi siamo andati in fondo al mar, perché è proprio qui che vive un pesce dal cui fegato, a proposito di fegato, si ricava un olio che sino a qualche tempo fa veniva somministrato come ricostituente ai bambini. Chi l'ha provato ancora lo ricorda. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Ma buongiorno a tutti voi, anche se col sapore del mare si può ragionare in maniera interessante. E mentre col sapore dell'olio di fegato di merluzzo, che era cattivissimo. Era cattivissimo nella storia di tutti. Devo dire che questa immagine dell'olio di fegato di merluzzo come ricostituente, sì, si dava, perché in effetti poi faceva bene, non è che desse tono, energia, però regolava e bilanciava una serie di elementi. Oggi in realtà dentro nell'olio di fegato di merluzzo possiamo

Sì, dica. Professore, da quanto mi sembra di capire dal suo discorso, è già un fegato molto stressato, cerchiamo, se non riusciamo a ridurre lo stress, ad intervenire su uno stile di vita, quindi non peggiorando la situazione, magari affaticandolo con una dieta particolarmente ricca. Ma infatti, allora, chiaramente la dieta a questo punto non deve essere iperproteica, non deve avere, diciamo, tutte quelle caratteristiche che possono portare poi alla sindrome dismetabolica, cioè a questa sindrome che chiaramente coinvolge il fegato, ma coinvolge anche tutto quello che è, per esempio, colesterolo e altre situazioni come appunto le transaminasi anche, che già abbiamo detto, e che evidentemente necessitano di una regolarità certo, che non possa considerare essenzialmente, e ripeto questo, gli alcolici, perché sono uno degli elementi veramente più destruenti. Poi lei ci dirà, destruenti. Sì, lei gli alcolici non ce li lascia proprio bere, neanche, sì, un no, po' diciamo di vino, il dai. Piccolo, il piccolo assaggio di vino giornaliero, ma però... Fa bene al cuore. Sì, può far bene al cuore, siamo d'accordo, però bisogna anche sapere che se abbiamo un sovrappeso, per esempio, a quel punto forse è opportuno cercare di regolarizzare la situazione. Certo, professore, parole sante. 800 24 00 24. Volevo dire a Donato che sul nostro sito, sulla pagina di Essere Benessere, abbiamo messo una meditazione fantastica, la state provando in molte, suggerite da Daniele Belloni, ve la portate dietro. E anche questo aiuta, cioè tante piccole cose, piccoli gesti quotidiani piacevoli ci aiutano a digerire lo stress. Essere e benessere. Mi so magna del fegato e me lo magno ancora, ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora. Se vi mangiate il fegato dalla rabbia, siete un po' collerici, siete lavoratori instancabili, scrupolosi, tendete a non lamentarvi mai e avete coraggio. 800 24 00 24, raccontateci e raccontatevi al nostro numero verde in attesa del dottor Aquila. E intanto riprendiamo a parlare di lui, del nostro fegato, professor Filipponi, che è grasso. Come faccio a capirlo? Abbiamo detto una dieta, sicuramente la dieta troppo ricca, in modo particolare di grassi e di calorie, la sedentarietà, il girovita possono essere degli indizi, e lei poi ha aggiunto due indicazioni, transaminasi e trigliceridi, e i nostri centralini sono impazziti. 800 24 00 24. Gianfranco da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti e salve. Sì, salve. Però anche volevo, a lei. Ecco, volevo fare una domanda al professor Filippone. Questo. Sì. Io da diversi anni, ormai dal 2004, ho una costante sul valore di transaminasi molto elevate. Recentemente, la settimana scorsa, ho dovuto per questo motivo anche fare una biopsia, perché dai valori delle mie transaminasi, parliamo di valori che vanno, do dei dati al dottore, le GPT 212 e le GOT 86 dalle ultime analisi che ho fatto, il mio patologo non giustifica, visto anche dalle varie analisi, che questi valori possano essere dati da una steatosi, considerato il fatto che sono leggermente sovrappeso, quindi non sono obeso, ho una dieta, diciamo, abbastanza tranquilla, non sono un bevitore di vino. Però ha questi valori che non scendono. Non giustificano una potenzialità, una possibile steatosi. Dobbiamo fare questa biopsia perché potrebbe essere un fatto anche legato alla natura genetica. Sì. Volevo un po' avere dal professor Filipponi la sua... Professore, allora, prendendo spunto dalla telefonata di Gianfranco, che così parliamo, apriamo una parentesi sulle transaminasi. Sono sempre indice di un fegato che è affaticato e che non funziona a dovere? Ma non solo, purtroppo l'aumento di transaminasi può avere varie motivazioni, la prima ovviamente quella più comune è quella virale, quindi bisogna escludere con degli esami del sangue ovviamente la presenza di possibili virus di tipo epatitico A e B, e anche, come sappiamo, ancora più in maniera pregnante l'epatite C, che chiaramente rappresenta la prima cosa da valutare. Poi ci sono le malattie autoimmunitarie, le cosiddette malattie autoimmunitarie, che possono essere causa di danno epatico. A questo ovviamente c'è stata una corretta indicazione che il medico ha dato al nostro ascoltatore, che è quello ovviamente di avere una valutazione attraverso la biopsia. Che è un esame che permette di fare più chiarezza. Infatti, che permette di dare diciamo, una chiarezza maggiore e conseguentemente diciamo che tutto lo spettro degli esami che devono essere effettuati evidentemente probabilmente non sono stati completi nella loro effettuazione. Professor Filipponi, ma se il fegato è grasso, che cosa si fa? Ci si mette a dieta? Basta la dieta? No, non basta la dieta. Ovviamente laddove c'è un sovrappeso, un'obesità, bisogna comunque cominciare in primo luogo, a mio avviso, a correre, se così si può dire. Nel senso, evidentemente l'introito di proteine è stato eccessivo e conseguentemente non è sufficiente solamente idratare il corpo, bisogna passare anche a un movimento. Il movimento è fondamentale. Oggi come oggi sappiamo tutti che i 5.000 e i 10.000 passi sono diciamo quelle regole specifiche che si dovrebbero attuare 3 volte alla settimana. I 5.000 e 10.000 passi permettono in mezz'ora o in un'ora, a seconda diciamo delle possibilità del soggetto, di diciamo riuscire a eliminare delle calorie in eccesso. E queste ovviamente sono delle situazioni specifiche, perché se continuiamo anche a fare una dieta corretta ma non riusciamo a diminuire diciamo il nostro peso, ovviamente perché verosimilmente manca la componente del movimento e quindi non è soltanto diciamo la cosiddetta corsa, ma è anche importante poter 3 volte alla settimana percorrere i nostri 5.000 o 10.000 passi, che di fatto rappresentano, come abbiamo detto, mezz'ora o un'ora, per poi avere il risultato di una diminuzione del proprio peso. Allora, se siete così in forma, perché non correte la 10 km con Dana? Dai, che bello! La corsa è la prossima settimana. Mancano 3 giorni alla gara, fammi vedere che ne hai un bel paio. Va bene, ma sono sfinito. Non ce la faccio proprio più a correre su questa geggio. Non ce la faccio. Scusatemelo. Accidenti, che faticaccia. Bisogna correre, ha detto il professor Filipponi, e noi corriamo. Però, se correte, vi sarà capitato di avvertire una fitta lancinante al fianco destro, tanto forte da lasciare senza fiato, da costringere proprio a fermarsi, per riprendere fiato, ma anche per così allentare un po' il dolore. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno, dottor Respizzi. Buongiorno, Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sarà capitato anche a lei, immagino. Altro che. Lei non ha pensato al fegato, ma a qualche cosa di simile, di vicino. Assolutamente sì, è una cosa che può spaventare molto, perché in effetti è molto doloroso, molto fastidioso, insorge all'improvviso e sembra che qualcosa all'interno della nostra pancia sia dato improvvisamente in crisi. Sì. In effetti è proprio così, è qualcosa all'interno della nostra pancia, ma giusto per essere immediatamente chiari, non è nulla di grave. Quando noi facciamo uno sforzo fisico, ad esempio correre, abbiamo bisogno di più ossigeno possibile. L'ossigeno ce lo porta al sangue e quindi il nostro organismo manda molto sangue ai muscoli. Mandandolo da una parte, esattamente come accade nei vasi comunicanti, cerca di toglierlo da altre parti. E quindi dall'altra parte che cosa sono? Sono gli organi che ci sono nell'addome. Quindi ad esempio la milza, ad esempio il fegato, tutta la trippa che abbiamo all'interno della nostra pancia, tutte le frattaglie diciamo così. E quindi che cosa succede? Che questa muscolatura, la muscolatura di questi organi va incontro ad uno spasmo, è proprio come se fosse un crampo. Un crampo, bravissima, è proprio un crampo della muscolatura di questi organi, che però noi non vediamo, sentiamo solo il dolore ma non ci rendiamo conto, perché un crampo esterno lo vediamo, lo sentiamo il muscolo che diventa duro, eccetera. In questo caso invece è una cosa che non riusciamo neanche a controllare, perché questa muscolatura di solito non la controlliamo con il nostro cervello, ma è un'attività che avviene in maniera autonoma senza che il nostro cervello interferisca. Quindi è molto può spaventare da un certo punto di vista, è molto doloroso, ma io vorrei tranquillizzare gli ascoltatori. Che non è il fegato. No, non sta scoppiando il fegato, non sta succedendo niente di strano, ha soltanto uno spasmo, si sta lamentando del fatto che c'ha poco sangue e quindi si sente un po' in difficoltà. Quindi ci si ferma? Ci si ferma, si respira tanto, si fanno dei bei respironi, scende la frequenza cardiaca, il sangue immediatamente viene spostato dai muscoli, dove in quel momento non serve più, verso questi organi, la muscolatura si rilascia e anche il dolore recede nel giro di qualche minuto. E siamo pronti per riprendere il cammino o la corsetta. Non c'è da prendere nulla di particolare, soprattutto appunto non c'è da spaventarsi. È chiaro che riprendere la corsetta, se siamo molto decondizionati, vuol dire che magari il dolore ritorna. Quindi facciamoci una riflessione: se dopo aver fatto 300 metri di corsa abbiamo già questo sintomo, vuol dire che siamo un po' scoppiatelli, come si dice in gergo, insomma. E quindi allenarsi un po' meglio. Un pochino meglio, sì. Grazie, dottor Respizzi, buona giornata. Altrettanto, buongiorno Nico. Claudia, buongiorno da Roma e poi Franco da Brindisi. Benvenuta Claudia. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Io desideravo sapere la relazione tra collera e tra vaso di bile, mal di fegato, perché ne parlavamo proprio l'altro giorno, essere gialli, no? Verdi dalla rabbia. Dalla rabbia, si dice. Sì, desideravo sapere appunto quale relazione ci sia tra queste due componenti, una caratteriale e l'altra invece fisica. Perché il giallo al professor Filipponi non farà venire in mente la bile o l'arrabbiatura. Ma che cosa, professore? Ma no, diciamo che quanto è stato richiesto fa invece pensare, da un lato, al fatto che chiaramente ci possa essere nella cosiddetta arrabbiatura uno spasmo della via biliare. Sì. Uno spasmo della via biliare che chiaramente può condizionare un po' come quello che è stato detto subito sul crampo Respizzi, che evidentemente ci possa essere un momento di contrazione molto spinta della via biliare principale. Sì. E questo. Nello stesso tempo dobbiamo anche immaginare invece come aspetto patologico che all'interno della via biliare ci possano essere dei piccoli calcoli. E questo evidentemente diventa invece un aspetto anatomico, ma nello stesso tempo molto importante, perché di fatto si equipara ad una patologia. Franco da Brindisi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Volevo chiedere cortesemente al professor Filipponi una cosa. Io ho l'epatite B cronica, è stata diagnosticata attraverso una biopsia circa 6 anni fa. Sì. Corro da circa 5 anni. I transaminati ce l'ho nella norma perché ogni 3 mesi faccio le analisi. Il colesterolo ce l'ho sui 270, quello totale. L'HDL ce l'ho diciamo molto alto. Può venire alla domanda, Franco? Sì, volevo chiedere innanzitutto l'incidenza della corsa e poi trigliceridi ce l'ho di sotto della norma addirittura. L'incidenza della corsa, se ci sono anche... Se con una malattia di fegato l'attività fisica fa bene o in qualche modo può nuocere? Professor Filipponi? Ma dunque, con una malattia di fegato chiaramente bisogna valutare attentamente la possibilità di poter fare della corsa e comunque dello sport, perché evidentemente questo può essere controindicato a seconda, diciamo, della situazione e quindi degli accertamenti che sicuramente il nostro ascoltatore avrà fatto, insomma. Per quanto riguarda i trigliceridi, è sotto controllo? Cosa dice lei? Allora, per quanto riguarda i trigliceridi, il fatto che abbia una riduzione, diciamo così, dei valori dei trigliceridi fa pensare che ci possa essere un problema essenzialmente sulla parte virale della sua situazione a livello epatico. Essere e benessere. Professor Filipponi, abbiamo solo accennato a un grande capitolo che è quello delle epatiti. Sì, sì, è un grande capitolo questo. E infatti un capitolo che necessita di essere gestito. sentito in maniera importante da tutta la sistema sanitario, nel senso nel momento in cui è possibile immaginare o avere dei disturbi che possono essere appunto caratterizzanti per il fegato, evidentemente si deve subito andare alla valutazione degli esami specifici per l'epatite sia B che C. Mentre per l'epatite A, che è quella alimentare, non dico che la prendiamo più sotto gamba, ma il discorso si fa molto più semplice. Sì, è chiaro, a questo punto il discorso è molto più semplice e che chiaramente rappresenta un po' quello che può essere la questione, diciamo, per chiunque di noi, cioè ci può essere stata una ingestione per esempio di cibi non diciamo artefatti o comunque non più ingeribili, che chiaramente hanno condizionato un passaggio di questa situazione, quindi della diciamo epatite A, che peraltro tende a autolimitarsi. Questo è un dato che ormai è abbastanza conosciuto. È arrivato il dottor Aquilar, forse è rimasto sempre con noi. Buongiorno dottor Aquilar, riascoltiamo la nostra scheda, che così la richiamiamo. Andiamo. Un gran lavoratore. Instancabile e scrupoloso. Non si lamenta mai. Quando lo fa è proprio perché non ne può più. Tende a ingrassare. E anche a ingrossare. Ha un caratterino tutto suo. Gli salta spesso la mosca al naso. Ama la vita regolare. Ma non insipida. Gli piacciono la varietà e la misura. Mi scrive un ascoltatore: chi si arrabbia tanto ha un fegato robusto. Dottor Aquilar, e aggiunge, spero di no. Dottor Aquilar, allora, tanti nostri ascoltatori mi hanno inviato messaggi al 349-238-6666, ma poi potremo anche trasferirci su Facebook, sottolineando essenzialmente due aspetti, la rabbia e il lavoro. Non so se queste due cose a lei dicono, suggeriscono una lettura ulteriore. Certo, certo, anche se, diciamo, nella scheda la cosa molto carina era il fatto che il nostro protagonista ama la vita regolare ma non insipida, e quello dovrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Certo. Perché poi di fatto nelle telefonate degli ascoltatori c'era Donato che parlava dell'aspetto dell'ansia collegato anche al nostro protagonista e Claudia da Roma che parlava della rabbia. Quindi in qualche modo abbiamo delle emozioni che sono collegate ad una preoccupazione e alla difesa di se stessi e dei diritti, per cui al primo posto puntiamo ad una vita regolare ma non insipida, difendendo le nostre ragioni senza lasciarcene prendere e denunciando l'eccesso di controllo in prima battuta. Sì. Dottor Aquila, allora, lei ha detto in apertura che ciascuna di queste caratteristiche, di questi tratti della personalità, sono di per sé buoni, ma possono in qualche modo, se a proposito di misura, ritorcersi un po' contro. Quindi il lavoro è assolutamente importante, ma ci sono persone che vengono fagocitate giustamente dalle preoccupazioni del lavoro, così anche le persone che non si lamentano mai, alla fine non lamentarsi mai può produrre anche delle somatizzazioni. Dottor Aquilar. Certamente, come tutte le emozioni possono essere disregolate o disfunzionali per eccesso o per difetto e anche alcune delle strategie di condotta di cui abbiamo parlato. Il lavoro è sicuramente una cosa che ci identifica e che ci aiuta, però se diventiamo drogati del lavoro e rimuginiamo continuamente ed esclusivamente sul lavoro ci impediamo di vivere. La collera è un'emozione che ci aiuta contro i competitori, ci aiuta per la difesa di noi stessi, dei nostri principi e dei diritti degli altri, ma anche qua dobbiamo stare attenti a non lasciarcene trascinare, altrimenti ci travolge completamente. La lamentela, un eccesso di lamentela sicuramente può renderci antipatici e può peggiorare il nostro livello di vita, d'altra parte ogni tanto dovremo permetterci di raccontare a qualcuno come è brutto essere noi per avere in qualche modo un sollievo. e anche di coraggio, sicuramente in alcuni casi serve ed è indispensabile. Un eccesso di coraggio a volte ci espone a dei rischi che possono essere pericolosi per noi e per i nostri cari. Dottor Aquila, mi sa che lei dovrebbe venire una volta qua o scriverci un post sul nostro Daily Lab per capire qual è la misura. Certamente, una misura che sia intermedia, che non sia né troppo né troppo poco e che soprattutto armonizzi le varie emozioni nel corso della nostra vita, ricordandoci che le principali sono felicità, tristezza, rabbia, paura e disgusto e che devono essere più o meno distribuite in maniera equa perché ci aiutano a comportarci in modo adeguato e senza stressarci troppo. Ricordo il titolo del libro del dottor Aquila, Riconoscere le emozioni. Dottor Aquila, noi ci sentiamo presto e la ringrazio per essere stata con noi. Grazie, grazie a tutti i nostri ascoltatori e ospiti. Buona giornata a Nino, che ci chiama da Latina. Buongiorno Nino. Buongiorno, volevo soltanto chiedere quale può essere a lungo andare l'influenza dell'assunzione di farmaci per malattie croniche, antiepilettici in questo caso. Li assumo da 20 anni e le conseguenze sono valori gamma GT chiaramente elevati. Che stile di vita si deve avere riguardo soprattutto all'alimentazione, immagino, e se questa cosa può essere in qualche modo contrastata. Grazie Nino. Professor Filipponi, ci sono dei farmaci che pesano in modo particolare sul nostro fegato. Se la malattia è cronica, di solito il curante provvede, giusto, a dei controlli? Certo, però diciamo che in questa situazione dura e perdura ovviamente per anni, sicuramente le gamma GT tendono ad avere, a seguito dei farmaci e della tipologia diciamo di farmaci, ad avere tutta una situazione di importante steatosi e conseguentemente in questo caso un'induzione che nasce ovviamente dal farmaco specifico. Chiaramente quello che è necessario è una importante idratazione di 1,5-2 litri ogni giorno. Nello stesso tempo una dieta che sia e che poggi su antiossidanti, quindi verdure, sì. Indubbiamente spremute di arancia, che chiaramente anche in questo caso aiutano in maniera importante, e comunque sempre una assunzione, diciamo, una mancata, voglio dire, assunzione di alcolici, vino, perché questo evidentemente è in profonda contraddizione con l'assunzione di questo tipo di farmaci. Chiaramente anche in questo caso, nonostante tutto, è necessario immaginare di dare adito al movimento in maniera regolare, almeno 3 volte alla settimana. Professore, devo salutarla. Buona giornata, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi che siete intervenuti e ci avete seguito, continuate a farlo, scaricateci. Filippa Oreggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e noi torniamo domani. Buona giornata. Essere e benessere.